perché cerchi di passare per uno con una vista da 10 decimi quando sei cieco come una talpa? Non è affatto vero che voglio passare... Sì, signore. La tua è una fissa, proprio come quando cercavi di passare per un bianco. Vuoi dire che non sono bianco? Wally, mettiti seduto. Ma è scandaloso! Ma come sarebbe non sono bianco? Allora si può sapere perché non me l'hai detto prima? Tu, che sei mia sorella! Adesso basta! Gesù mio, sai adesso a quante cose bisognerà rimediare? Dovrò rinunciare agli abbronzanti. E che cosa diranno gli amici del circo? Non sono bianco! Oh, si sente anche! Ah! Ah! Oh mio Dio, sorella, hai ragione! Signore, aiutami tu! E papà lo sa! Salve da Giulio, sta per iniziare una nuova puntata di Sentieri, un format che cerca di andare a piedi nei boschi delle ovvietà per cercare strade nuove, percorsi alternativi ed evitare le scorciatoie. Nel clima attuale che si respira fuori e dentro internet, si dice spesso che si stanno risvegliando i lati peggiori degli italiani. Forse invece si sta facendo addormentare la parte bella di un popolo e di un paese intero. Lo slogan "prima gli italiani" sembrerebbe una trovata politica che sta avendo un successo. Sto parlando troppo e vi state annoiando. Mando avanti veloce e iniziamo. Sentieri. Percorsi tematici per esplorare l'universo multiculturale della Campania. Ma io mi sento di dire una cosa che fino adesso nessuno non l'ho mai sentita e che invece nella quale io credo moltissimo, no? Perché io che ho vissuto una parte della mia vita immersa in una diversità di pelle, no? Cioè la diversità era visibile, ma visibile nella maniera totale, perché noi avevamo le scarpe, loro no, noi avevamo il vestito, loro avevano la futa ad Asmara e Addis Abeba. Cioè c'era una diversità che tangibile, no? E c'era una guerra contro, e anche quando non c'è stata più la guerra contro, c'era, questo è l'ex nemico. Cioè c'era una diversità che andava al di là anche del colore della pelle. Io ti dico con tutta franchezza, non mi sento razzista nel senso negativo, assolutamente. Io, per me, metto a sedere in questa poltrona qua anche un negro che mi viene dal Congo da ieri, insomma non ho problemi di questo genere. Eppure io in fondo, se mi analizzo bene, anche io ho dei moti razzisti. Anch'io ho dei rifiuti, vuoi perché ho vissuto là tanti anni, vuoi perché l'ho sentito per tanto tempo, perché nella mia educazione io ho vissuto nel fascismo, nel pieno fascismo, pur non essendo fascista. Mio padre non era fascista, anzi abbiamo avuto tanti fastidi noi per questo, ma forse anche questo mi ha fatto capire. La voce che avete appena ascoltato è di Adriana Fezzi, italiana nata ad Asmara 86 anni fa. La sua lucidità di pensiero e di analisi, che continuerete ad ascoltare anche dopo in questo episodio, ci offre spunto per iniziare. È innegabile che nel linguaggio comune abbia fatto il suo ingresso, o ritorno, lo slogan "prima gli italiani", cristallizzando un intero pensiero politico, una bandiera rassicurante, insomma, ma cosa c'è oltre lo slogan? È un tema faticoso e per iniziare con una certa leggerezza lo abbiamo chiesto al poeta, scrittore e cantautore Alessandro Fiori, ex cantante degli Amore, e autore di canzoni come questa, per esempio. Ci compiace d'esser senza alleati, trova questi umani troppo indaffarati, da non accorgersi che gli stanno rubando il tesoro. Ascoltiamo. Io quando sentivo questa cosa qua di "prima gli italiani", vabbè, ci sono tutte le fasi della reazione, no? Che poi sempre si trasforma, e quindi divertimento, senso del grottesco, com'è possibile che si ritorna sempre alle stesse queste robe cicliche, un po' umilianti, eccetera. Ora sono nella fase quando sento "prima gli italiani" e poi metto questo slogan in relazione con la mia condizione di padre di famiglia con due figli di 3 e di 8 anni, dico: ma io di che nazionalità sono? Ecco, io ora mi sto ponendo dei forti dubbi sulla mia nazionalità. perché se questo slogan fosse vero, ecco, mi sa che è giusto uno slogan, ecco, perché mi verrebbe le volte da andare a parlare con questi signori sponsorizzati dai media e gli vorrei far presente la mia condizione familiare, no? La mia condizione di vita reale, e quindi vorrei parlarci, vorrei capire perché ci lasciano in questa situazione di abbandono totale per quello che riguarda i servizi, il sostegno, le scuole, gli asili, le strade. E quindi prima gli italiani, d'accordo, ma dove sono gli italiani? Non capisco bene. E quindi ora sono in questa fase qua, di non capire bene qual è la mia... E guarda, in maniera egoistica ne voglio quasi approfittare, no? Ma perché non mi sembra che sia così vero? Mi sembra che sia davvero solo uno slogan a questo punto. Perché? Perché se si facesse, per paradosso, se si facesse, desse seguito a questa frase con un sostegno reale, no? Che poi è un sostegno di cultura a 360 gradi, poi alla fine agli italiani, poi magari questi stessi italiani sarebbero anche più meno stanchi e quindi anche più predisposti all'inclusione, al desiderio di conoscere persone con altre culture e via discorrendo, ma non voglio dilungarmi perché sennò risulterei un po' noioso. In effetti non ci aspettavamo questo schiaffo di realtà. Il fatto è serio e quindi bisogna chiedere direttamente a lui, Matteo Salvini. Cerchiamo il numero su Google e proviamo a chiamare. Vodafone, messaggio gratuito. Il numero selezionato è inesistente o momentaneamente non disponibile. Se desidera informazioni... Ok, niente. Purtroppo non abbiamo tempo da perdere e così contattiamo un militante della Lega locale, Gigi Ruggiero, un ex militante 5 Stelle che dopo il cambio di governo è passato alla Lega. Ma abbiamo una situazione che sta degenerando anche nei piccoli comuni, non parliamo delle città, ma anche dei piccoli comuni, e quindi non dico che con Salvini possiamo, però siccome è un partito che si sta facendo nuovo, beh, insomma, almeno c'è da un po' di tempo, quando meno si cerca di migliorare qualche cosa, poi se non ci riusciamo strappiamo la volta buona e facciamo proprio la terza elettorale. Perché veramente è diventato uno schifo dal mio punto di vista, poi se gli altri la pensano dicono che poi tutto è rose e fiori, io non direi. E Gigi, scusami, rispetto, noi chiaramente ci chiamiamo Radio Antenna Migrante perché abbiamo il focus stretto su quello che riguarda l'integrazione vari... è stata stretta, ma tu se ti ricordi, io capisco bene il lavoro che facevi tu, facevo io, facevamo tutti, no? Però era diventato un business per pochi, e non solo, era diventato anche per la malavita, e non solo, poi questi ragazzi venivano lasciati alla mercé di tutti, cioè poche società o poche cooperative lavoravano bene, ma nella grossa maggior parte, dell'80%, prendevano i soldi. Cioè, ti voglio dire, che ben venga l'immigrazione, però che sia un poco controllata, che sia integrata. Noi abbiamo tanti anziani, tante persone malate di sclerosi, perché non li mettiamo al servizio di queste persone pagandole? Cioè, questo dico io. Visto che lo slogan è prima gli italiani e ci sono tutti i limiti dello slogan, volendo uscire fuori dal messaggio lampo da far passare, tu come lo riformuleresti? No, non prima gli italiani. Gli italiani sicuramente. Però come ti posso dire, quando non c'è l'italiano, dove c'è l'italiano non vuole andare oppure non può andare, oppure non riusciamo a far fronte, lì ci deve essere la mano della persona, dell'immigrato, della... Ma ci sono tanti lavori, Giulio, che può fare l'immigrato, non è dall'anziana, dal sociale all'agricoltura pure. In chiusura di telefonata, lo slogan proposto da Gigi sarà «Prima il lavoro». Leggiamo nelle sue parole però degli spiragli inattesi sull'integrazione e qualcosa, seppure ci suona un po' storto, ci sembra già qualcosa di diverso da «Prima gli italiani». Siamo in cerca di un commento pacato e lucido sul tema e così chiamiamo Pasquale D'Aiuto, avvocato e tra i membri fondatori dell'associazione Giorgio Ambrosoli. Prima gli italiani. Gli italiani sono tali per cultura, non lo sono per nascita, secondo me. Quindi prima gli italiani è uno slogan populista, molto, che abbassa ulteriormente il tasso culturale del paese, che fa leva su istinti primordiali. Quindi la cosa bella è che, tra l'altro, prima gli italiani potrebbe essere usato al contrario, penso io. Perché in realtà potrebbe essere letto nel senso che bisogna fare gli italiani, formare gli italiani, e gli italiani sono tutti quelli che stanno nel nostro paese e che devono convivere in maniera civile e organizzata. Questo mi fa venire in mente. Gigi Ruggero ci ha consegnato anche il numero di Pino Palmieri, il primo sindaco leghista del Cilento. Lui è primo cittadino per il comune di Roscigno, che su Wikipedia leggiamo avere 738 abitanti. Ma prima di fare questa telefonata chiediamo a Gennaro Avallone dell'Università di Salerno e curatore anche del libro Il sistema di accoglienza in Italia di offrirci una cornice più generale per leggere questo slogan. Questo tema di prima di italiani in realtà è valido anche in altre, utilizzato anche in altri paesi europei, che ne so, in Spagna per esempio, no? Lo spagnolo è primero, il partito, l'estrema destra tedesca, diciamo, la SD, no? Lo utilizza, no? Da per economia, lo utilizza prima di. Prima i tedeschi, quindi è uno slogan che ha una diffusione che ovviamente va oltre l'Italia, ma anche l'America First di Trump, no? Quindi è uno slogan che ha attinenza con una fase politica mondiale, se vogliamo, comunque in molti paesi è utilizzato. E quindi vuol dire che coglie, no, una tendenza che è più generale rispetto al solo contesto italiano. E quindi riguarda una fase più della storia corrente, contemporanea, cioè attuale, odierna del mondo, caratterizzata in questa direzione, che ovviamente però si affonda, no? Cioè è collegata a dei sentimenti più strutturati, più profondi, voglio dire, non è limitata solo alla fase attuale, cioè è evidente che c'è un sentimento nazionalista basato sull'esclusione dei non nazionali e degli immigrati. Più storicamente più lungo, voglio dire, no? E noi siamo europei e lo sappiamo perfettamente. Europa, Stati Uniti, cose, mondo vario, prima tutti, insomma, a questo punto la confusione è totale. Facciamo così partire la chiamata al sindaco Pino Palmieri e sperando di avere qualche delucidazione in più su chi amministra il territorio avendo come bandiera nazionale prima gli italiani. Ma guarda, a prescindere dall'idea dello slogan, io credo che c'è un problema proprio sociale. Tu tieni presente che l'emergenza migranti è stata combattuta con stanziamenti importanti di denaro, perché è un'emergenza. Però io credo che sul nostro territorio, sia quello nazionale che locale, io credo che le emergenze non si limitano a quella dei migranti. Abbiamo emergenze legate alla legabilità, abbiamo emergenze legate all'occupazione, abbiamo le emergenze e quindi il concetto prima degli italiani è un concetto dove dice prima di aiutare gli altri cerchiamo di aiutare chi vive questo territorio, ma il punto di partenza è questo. Tu tieni presente che il consenso verso la Lega aumenta giorno per giorno, è il primo partito in Italia, quindi è un consenso dovuto a che cosa? Soprattutto perché c'è qualcuno che si sta facendo carico di alzare la voce su temi forti che interessano gli italiani, perché sennò non prenderebbe un consenso di questo tipo. Quindi l'italiano sente suo questo spot, questo lo slogan, perché dice voglio essere io al centro dell'attenzione e poi possiamo dare attenzione anche agli altri. Ma guarda, io ho un mio parere, vivendo, facendo il sindaco di un piccolo comune, io credo che bisognerebbe partire dalla parola lavoro, perché solo con la parola lavoro c'è giustizia sociale. Allora, anche il fatto di far arrivare sui nostri territori i migranti e spendere tanti soldi e poi non c'è una vera integrazione, noi facciamo solo del male alla nostra nazione, perché se non c'è lavoro, queste persone vengono integrate in quale mondo lavorativo? A camorra, a mafia, uno spaccio di droga, che cosa è integrato? Sull'abusivismo commerciale. La grande lotta da fare è quella di creare lavoro e soprattutto coniugarlo ai nostri giovani, perché soprattutto al sud i nostri giovani abbandonano il territorio perché non c'è lavoro. Saresti disposto a cambiare lo slogan in prima il lavoro invece di prima gli italiani, o pensi che non abbia la stessa presa, lo stesso consenso? Ma guarda, no, io faccio il sindaco di un piccolo comune, credo che dietro a uno spot di un partito nazionale, cioè io non è che posso permettermi di cambiare lo spot della Lega, perché sicuramente è uno spot che è maturato negli anni e io ho aderito da poco alla Lega, quindi, però credo non è questione di spot, è questione di dare risposte ai cittadini, perché poi spot prima gli italiani è un qualcosa che, come in tutta la comunicazione politica, serve per dare il senso della propria azione politica. Però io credo che in questo momento bisogna prima di tutto dare risposte al territorio, a prescindere da quello che si scrive. Ma io ti dirò di più, io sono un sindaco oggi considerato leghista, perché sono vicino alla Lega in primis perché io sono convinto che sul nostro territorio, e parlo del Salernitano, del Cilento e degli Alburni, ci vuole un qualcosa di rottura, perché il sistema politico sul nostro territorio credo che abbia fallito in tutti i suoi aspetti. Quindi io mi avvicino alla Lega perché credo che può essere portatrice di un modo nuovo di amministrare i territori. Poi a prescindere da tutto quello che si parla a livello nazionale e roba varia, però ci vuole qualcosa di rottura, e la rottura su questo territorio ne ha bisogno, perché tu tieni presente che noi viviamo su un territorio dove il voto clientelare la fa da padrona, dove ognuno che ti vota ti cerca un piacere. Questa è la realtà del sud. Che io sappia ci sono già altri amministratori che stanno aderendoci. Ieri sono stato a Sorrento, che hanno aderito il sindaco di Sorrento e il sindaco di Positano. Però a prescindere dalle adesioni, che molte volte io sono più per un cambio culturale, un modo nuovo di intendere la politica, perché poi corri il rischio di imbarcare molte volte persone che fanno calcoli solo opportunistici per le adesioni ai partiti. Io, per quanto mi riguarda, ho fatto una scelta di vita. Io da Roma mi sono trasferito al mio paese e lavoro per il mio territorio, ci metto la faccia. E non ti nascondo che purtroppo determinate mie esposizioni mi creano anche dei problemi, però rubare, paura non avere, no? E quindi cerco di mantenere questa linea barra dritta. Poi ti dico di più, guarda, io sono sindaco di Roscigno e io ospito un centro SPRAR. Sì. Mi segui? Sì. Anche essendo... Essendo leghista, io sul mio territorio ho un progetto SPRAR che dal 2011 che io ho ereditato. A dire la verità, ho ereditato un centro SPRAR e un centro immigrati. Il centro immigrati l'ho fatto chiudere perché un comune con 600-700 abitanti non si può permettere di avere 60-70 immigrati sul territorio. Tieni presente che avevo un problema serio sulla difficoltà a gestirlo, perché era... ogni giorno succedeva qualcosa, colluttazioni, aggressioni, roba varia, e tieni presente che intervenivo io col mio vigile urbano. Oggi ti posso assicurare che il modello di Roscigno io lo vado spendendo in giro. Venite e vi faccio vedere l'integrazione a Roscigno, non l'accoglienza, l'integrazione, che è una cosa diversa. Che io, appena arrivato, nel mio progetto SPRAR ho fatto inserire la voce tirocini formativi presso l'ente. Tu devi lo spazzamento nel mio paese È obbligatorio la presenza dei tirocini formativi nel regolamento dei SIPRO e MISPRAR. Esatto, solo che è uscita una norma che adesso i tirocini formativi verso l'ente pubblico sono stati limitati dalla legge regionale, e quindi io non posso avvalermi più della prestazione dei rifugiati che ho sul territorio. Però che cosa accade? Quello che non percepiscono è che il fatto di avere io dei rifugiati che lavorano per il mio ente e danno dimostrazione ai cittadini di essere utili, quindi vengono accolti ancora meglio, perché vedere un rifugiato davanti alla propria abitazione che sta col telefonino e si gratta dalla mattina alla sera, credo che non è un bel segnale per i cittadini. Però vedere un rifugiato che lavora per la comunità dove è ospite, credo che è un messaggio migliore, no? Tra le altre cose, questa operazione mi ha permesso anche di ridurre la Tari, i rifiuti, perché prima lo spazzamento me lo faceva una ditta e dovevo pagare la ditta. Oggi con i tirocini formativi, anzi ieri con i tirocini formativi, potevo tranquillamente sopperire, anzi il mio paese era pulitissimo, solo che adesso è entrata in vigore questa norma che non permette più ai comuni di potersi avvalere di tirocini formativi di questo tipo. Me ne posso avvalere di uno ogni 3 mesi all'anno. Però quello che sfugge a chi fa la norma è che avere la possibilità di testare al lavoro i rifugiati che abbiamo sul territorio era anche la possibilità di conoscerli e capire quali erano le sue prerogative, le sue capacità lavorative. E questa cosa ha permesso a me, amministrazione, di poter pubblicizzare presso aziende del posto ragazzi che effettivamente hanno dimostrato di essere capaci e competenti e oggi sono stati assunti da imprese del territorio. Sindaco, una domanda allora: perché a livello nazionale poi diventa così difficile far passare invece l'idea che l'integrazione tra cittadini italiani e stranieri sia così difficile, quando invece in territori poi più piccoli l'esperienza è di segno opposto? Ma è più difficile perché se io immagino, tu sai, vengo da Roma, no? E puntualmente io ogni fine mese sto a Roma, però se andiamo alla stazione Termini, a Piazza della Repubblica, tutti questi rifugiati arrivati dormono nei sacchi a pelo, all'aperto. Perché? Perché non c'è stata integrazione, c'è stata solo mera accoglienza, dove sono stati investiti i soldi e dove purtroppo molte volte si è rivelato che qualcuno ci ha fatto pure business su queste cose qua. Allora è ovvio che il cittadino italiano non la vede di buon occhio quando escono fuori queste informazioni, è ovvio che c'è una rivalsa su questo tipo di gestione. Allora io ti dico, ma perché per l'emergenza rifugiati il governo trova 3 miliardi d'euro e per la strada di Roscigno chiusa da 9 anni non trova 1 milione d'euro per riaprirla? Ma perché il ragazzo di Roscigno che è stato, non ha più casa, non può accedere a determinate misure che entrano i rifugiati, e mi è toccato a me comune trovare una casa e dargliela incomodato? Beh, in teoria questi servizi ci sono anche per gli italiani, e che poi non se ne fa uso. Ma in teoria, ha detto bene, in teoria. Ma il problema penso non può essere degli stranieri che arrivano qua in Italia, o no? Penso questo. No, allora guarda, se tu vieni da me, io ti faccio conoscere ragazzi e rifugiati che stanno sul territorio, che sono stati integrati. Tu pensa che io ho sto ragazzo Jamel che materialmente ha partecipato al bando per le case popolari, a Roscigno ha avuto l'assegnata una casa popolare, si è portata la ragazza, adesso gli nascerà un figlio a dicembre, si è pienamente integrato, lavora sul mio territorio. Ti dirò di più, noi abbiamo una squadra di calcio che fino a 2 anni fa non li accettava in squadra, oggi giocano anche con la squadra di calcio del paese. Quindi questa è la vera integrazione. Poi se dobbiamo parlare del business dell'accoglienza, è ovvio che il cittadino italiano, quando sente determinate notizie, è portato a osteggiare questo modus operandi, no? Cioè che se io dico viva le donne nude, prendo i voti, io dirò viva le donne nude. Ti ripeto, allora, lo slogan prima gli italiani è un qualcosa dovuto, perché l'italiano in questo momento viene visto come figura secondaria alle emergenze. Cioè l'emergenza rifugiati è un'emergenza che sembra che viene prima di tutto il resto, capito? Questo è il messaggio che passa a livello mediatico, perché parliamo d'Europa, quando io accendo la televisione ti riempiono la testa di che cosa? Problema rifugiati, bloccata la nave, bloccato qua, aperto qua, l'Europa là. E allora io italiano no, ma può essere che in Italia l'unico problema è diventato quello dei rifugiati che arrivano? No! Però sindaco, io penso che Salvini in questo ha contribuito tanto. Io ho più piacere ad ascoltare una persona come lei, che ha un contatto diretto con i territori, che non poi chi come Salvini di questo ha fatto il suo cavallo di battaglia. Vabbè, ma Salvini giustamente è un leader nazionale e sta delineando, ha delineato la sua linea d'azione. Come è ovvio che ci sarà un partito che può fare, che ne so, il PD prima i rifugiati, che lui ha fatto prima gli italiani, per dirti, no? Ognuno poi cerca di trovare il modo migliore per entrare nel consenso popolare, e in questo momento, se Salvini ha questo consenso, è perché l'italiano si sente secondo alle problematiche che vengono gestite dal governo e dal territorio, all'eccesso, dove non bastano i nostri figli che dicono che tu fai nel piccolo paese, ma pure quelli che stanno qui, i rifugiati, cioè, vengono da te e te mortificano. Che dobbiamo fare qui? Noi dobbiamo andare, chi se n'è andato in Germania, chi se n'è andato a Roma, chi se n'è andato a Vicenza. Sulla parola Vicenza il pensiero corre a Martina Copiello, una cara amica, donna, madre e psicologa, che vive a Costa Bissara, a pochi chilometri di Vicenza, in quella fetta di territorio dove la Lega, nelle sue varie forme, governa da almeno 20 anni. Martina si dedicava all'accoglienza e all'integrazione di richiedenti asilo. Dopo i tagli del decreto sicurezza, 1 e 2, voluti da Salvini, la sua cooperativa ha deciso di chiudere il servizio perché non era materialmente possibile mantenere un livello adeguato di servizi. I tagli infatti hanno coinvolto psicologi, mediatori culturali, educatori e insegnanti di italiano. Allora, guarda, mi trovo in questo periodo, proprio in questa situazione assurda, perché io in questo momento sto cambiando lavoro e cambiando totalmente ambito. E quindi... no, non mi dilungo tanto, Giulio, non ti voglio fare la critica, però mi trovo con le persone più disparate, cioè l'altro giorno c'erano degli amici tedeschi di mio padre qui a cena e cercavo di spiegargli questa cosa, e con altri con cui mi trovo, sai, quando si trovano anche le persone più grandi, più adulte, e si cerca di spiegare cosa sta succedendo, perché la mia cooperativa non lavorerà più con i richiedenti asilo, perché non ha deciso di partecipare al nuovo bando, eccetera, eccetera. In realtà, quando io spiego questa cosa, cioè, tutti rimangono senza parole, cioè dicono, ok, cioè nel nuovo bando non c'è l'insegnamento dell'italiano, cioè nel nuovo bando non è prevista la figura dello psicologo, cioè nel nuovo bando, io spiego queste cose e tutti rimangono, ma di qualsiasi credo, provenienza, pensiero politico, eccetera, tutti mi guardano con gli occhi sbarrati, come dire, ma sul serio sta succedendo questa cosa qua? E io abito comunque alla Costa Bissara, che è un paese di 6.000 anime, col comune leghista, in cui la Lega ha preso un fracco di soldi, no, di soldi, scusa, di voti, le scorse elezioni, eccetera. Però poi anche quando mi trovo con le persone qua, con i miei vicini, che spiego questa cosa, quindi mi pare che scendere nei dettagli, quindi passare il tempo a parlare, ma veramente passarne di tempo a parlare e spiegare, sia una delle poche cose che forse veramente può entrare nella testa di una persona, perché sì, chiunque gli fai questo ragionamento dice rimane sull'incredulo, ecco. E poi si dimentica anche degli slogan che ha sentito, perché pensa alle cose pratiche. C'è anche, secondo me, veramente pochissima conoscenza del, ma probabilmente anche per lo scarso sforzo e lavoro da parte di molti degli anni passati di integrazione, ma proprio dal punto di vista della mescolanza, ok? C'è proprio poca conoscenza del significato veramente di chi arriva col barcone, poi dove arrivano, cosa fanno, qual è il loro destino, qual è il loro iter, quali sono i loro passi che devono fare, perché rimangono tanto tempo fermi senza fare niente. Non c'è conoscenza di questa cosa qua, ci sono solo appunto idee superficiali. Parlare con la gente, passarci il tempo, perché poi per esempio anche qui a Vicenza, nei momenti in cui fai una conferenza, un convegno, qualcosa così, veramente sono sempre le stesse persone che partecipano, cioè questo è un grande problema. Io quando vedo queste cose sono sempre le stesse persone le persone che sono già dalla tua, passami, che sono già dalla tua parte, capito? Anche questi gruppi, non lo so, sono un po' impermeabili, capito? Perché intanto sono frutto di appartenenze politiche già categorizzate, capito? Cioè, se tu vai là e ci sono quelli, sai già che quelli sono quelli. E quindi la persona X non ti viene. Questo è un cazzo di problema, sì. Bisognerebbe uscirne fuori con altri slogan, quello è il fatto, purtroppo gli slogan servono. Ci vogliono slogan intelligenti, perché non tutte le persone riescono, non le acchiappi con i ragionamenti, devi acchiappare anche con gli slogan. Ci vogliono altri slogan. Bisognerebbe far girare un hashtag o insomma, come dire, accattivante come questo prima degli italiani, anche perché la base teorica ce l'hai già, no? Bisognerebbe trovare degli slogan simili, perché non tutti sono in grado di ragionare almeno immediatamente. Gli italiani sono anche quelli di colore che arrivano qui, o quelli gialli o quelli rosa o quelli verdi. Per me gli italiani sono quelli che sono italiani per cultura, per background, per partecipazione alla vita sociale del paese. E invece secondo me bisogna includere. Bisogna includere, che è l'unica possibilità che abbiamo, anche perché è inevitabile che ci siano delle immigrazioni, è inevitabile, quindi secondo me bisogna soltanto formare le persone e far loro capire quali sono i valori su cui si basa una determinata nazione. Pasquale D'Aiuto torna a parlare di nuovi italiani. Abbiamo partecipato a un incontro non molto tempo fa che trattava proprio di questo, curato dall'associazione Ubuntu e da operatori di pace Onlus e Frontiera Sud e tante altre sigle. Andate a riascoltare il nostro podcast se siete curiosi. In quell'occasione abbiamo incontrato anche Dorra, che ha da poco avuto la cittadinanza italiana, quindi le chiediamo come si sente lei coinvolta da nuova cittadina italiana quando sente prima gli italiani. Prima di diventare italiana sentivo un peso, il peso di sentirti sempre diversa, perché la prima domanda è sempre non sei italiana? Non sei di qua? Anche se forse sono domande genuine, senza aver con te, però io me le prendevo un po'. Oggi mi sento mi sento diversa solo sul punto di vista amministrativo, nient'altro. Per il resto per me non è cambiato nulla. Prima gli italiani. Tu da italiana ne avresti dei vantaggi, però. E quali sono i miei vantaggi? Prima italiani. Votare per la Lega. Quello è un vantaggio? No, non penso. Quale dovrebbe... Da che si dovrebbe partire, Dorra, per essere come... Da mettere come prima cosa? Penso alla vera politica, nel senso... Proprio... l'educazione, lavorare sul campo con le persone, non stare dietro a questi slogan, fare selfie, show e tutto qua, niente, tutto fumo, niente, non c'è niente, poi slogan e basta, perché prima gli italiani alla fine il lavoro di fondo io non lo vedo, non vedo niente, solo propaganda. Ci troviamo in un paesaggio culturale dove siamo responsabili del clima che respiriamo e le parole andrebbero misurate e le domande coltivate e condivise. Ritorniamo all'inizio della nostra puntata da Adriana, che ha respirato fascismo a pieni polmoni, che è nata da Asmara quando gli italiani facevano i padroni a casa loro, volendo utilizzare un altro slogan di successo. Vuoi perché ho vissuto là tanti anni, vuoi perché l'ho sentito per tanto tempo, perché nella mia educazione io ho vissuto nel fascismo, nel pieno fascismo, pur non essendo fascista. Mio padre non era fascista, anzi, abbiamo avuto tanti fastidi noi per questo, ma forse anche questo mi ha fatto capire che c'era neanche l'odio, ma il rifiuto. C'era, quando io ero in Africa, c'era per il bianco di altra categoria sociale come per il negro, però io non pensavo mai, non ho mai pensato, né ancora oggi potrei mai pensare di avere per esempio un rapporto sentimentale e fisico con un uomo negro. E che cos'è questo? Non è razzismo? È razzismo. Ma io non mi farei mai toccare da un nero. essendo stata giovane, e quando ero giovane non ho mai pensato, ancora oggi quasi in fondo mi meraviglio quando vedo le copie miste. E sbaglio, lo so di sbagliare, combatto questo mio sentire, perché la mente mi porta a fare, però istintivamente è così. Questo argomento non l'ho mai capito, non l'ho mai fatto mio, ho le mie idee, che però non posso dire neanche che siano molto chiare, perché se io ti dico che se io mi analizzo molto bene, non volendo, non potendo farmi toccare da un negro, vuol dire che sono razzista. E noi vogliamo superare questo problema occupandoci solo del problema mentale, e quello non dovrebbe essere neanche difficile, se vogliamo, e molti lo superano così. I sacerdoti che vanno giù lo arci superano, quelli che si sposano con i neri lo arci superano, no? Perciò sulla strada ci siamo, però fare un discorso generale che solo se tu non ti senti comune ad un altro sei razzista, e non so quanto possa essere eliminato, ecco, questo ti posso dire. Può essere eliminato il comportamento, il pensiero, il ragionamento che ti porta a capire che certe cose sono così. Ma tu parli anche con una donna anziana che è già fuori dal mondo di oggi, forse oggi ci sarà pure chi lo pensa, oggi forse c'è. Oggi si sono fatti molti passi che quando io ero giovane non si pensava mai. Per dirti, quando il bianco che occupava l'Africa, e moltissimi bianchi hanno fatto famiglia con una negra, però perché per esempio un'altra cosa che a me mi è servita da medicina a questo male, perché per me è un male, il razzismo è un male terribile, è stato che c'era ad Asmara una famiglia nobile, i Marazzani, conti Marazzani. Uno di questi Marazzani mise incinta una negra, una donna che stava a servizio a casa sua. Non l'ha mai sposata, però ha allevato questo figlio. Veramente erano due. Due. Uno di questi ragazzi, che è diventato uomo, a un certo punto ha studiato, ha fatto tutto quello che doveva fare, come fosse stato un bianco, no? Però era un mulatto di prima generazione ed era piuttosto scuro anche. Incontrò una donna di Trevi, Perugia, e l'ha sposata. Se l'è portata in Africa, ha fatto due figli. Amalia era la prima figlia, che era a scuola con me. Ed era Amalia Marazzani. Ed era considerata una dei nostri, da tutti, perché apparteneva a una famiglia nobile, i conti Marazzani, aveva proprietà importanti, e faceva parte di una famiglia notevole ed era in possesso di tutte le qualità e i difetti che avevamo anche noi. Cioè, fra me e Amalia non c'era nessuna differenza se non il colore della pelle. Bene, quando ti dicevo che mia mamma era snob, mia mamma non gradiva questa mia amicizia con Amalia. Io sono ancora in contatti telefonici con Amalia, che adesso sta a Bovara, e questo è significativo. La società di Asmara non ha mai rifiutato i Marazzani, pur essendo mulatti, parte di loro erano mulatti di prima e di seconda generazione. Com'è sto fatto? Non ti poni una domanda? Ma allora sto razzismo che cavolo è? L'unica fedele a questo discorso era mia madre, con la quale ho fatto delle litigate che non si può immaginare, per questa ragione. Ma Amalia frequentava gli stessi posti miei. Amalia era una dei nostri. Come era vista all'epoca il fatto di delle coppie miste? No, non esisteva. C'era solo l'uomo bianco che stava con la negra. E che se era una persona onesta si tirava sui figli. Ma infatti la nonna di Amalia io non l'ho mai vista. Cioè la prima negra che è andata con un Marazzani io non l'ho mai vista. Non è entrata a far parte della famiglia Marazzani. Hanno preso i figli perché erano persone per bene. Questo ha messo al mondo due figli e non li hanno voluti lasciare. Li hanno presi e li hanno cresciuti. Perciò il mulatto già c'ha un passo in più, se viene da una famiglia ricca, intendiamoci. Perché ad Asmara di mulatti, a scuola mia ce n'erano tanti, ma erano molto... Io ero molto criticata, io ero amica di Amalia, ero amica di Anna Lamberti, che anche lei era una mulatta, figlia di un muratore con una negra, che però si era preso anche la negra in casa, aveva fatto anche un altro figlio, ha fatto famiglia proprio, ma era tenuto da parte, non faceva parte della comunità. E io dovevo lottare con mia madre per poter essere amica di queste due ragazze, perché anche da più grande, quando ad Asmara poi io lavoravo, per esempio mi ricordo che c'era un ragazzino che faceva da un garzoncino che portava il caffè, eccetera, no? Io mi ricordo, avevo la scrivania qua, lì c'era la porta d'ingresso e lì vicino alla porta d'ingresso c'era una sedia su cui sedeva sempre questo Tesfai, si chiamava. E guarda, un altro segno che ti dico, di cui mi vergogno, io non ricordo i lineamenti di questa faccia. È significativo questo, sai, io l'ho avuto davanti tutti i giorni per 4 anni, ho lavorato in quell'ufficio 4 anni, non mi ricordo la sua faccia. E io non sono mai stata razzista palese, come ti posso dire, consapevole, ecco. Non sono mai stata razzista consapevole, l'ho sempre trattato bene, ci ho scherzato, però il fatto che io non mi ricordi il viso è significativo, l'ho pensato tante volte questa cosa. Io non mi ricordo i lineamenti di questo ragazzo che vedevo tutte le mattine, incredibile, sapessi quante volte ci ho pensato a questa cosa. Questo è un altro segno, no? Questo è un altro segno. Per quello io, ogni volta mi è capitato di parlare di questa cosa, ho sempre detto: non parlate di diversità di razza, parlate di diversità di essenza dell'individuo. Che cos'è questo individuo che c'è davanti? Che fa? Cos'ha? Cosa pensa? Cosa ha fatto? Cosa vuol fare? Come si fa a dire? Siamo indietro, siamo tanto indietro. Ancora oggi siamo indietro, Giulio, siamo molto indietro. Siamo noi che abbiamo dei limiti estremi, dei limiti immensi, che non capiamo. Cavolo! Per ascoltare e riascoltare Radio Antenna Migrante, vai sul sito www.stranierincampania.it. RAM vive all'interno di Impact, FAMI 2014-2020, codice 2451, cofinanziato da Unione Europea, Regione Campania, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Ministero dell'Interno. Grazie e a risentirci alla prossima.